non è un voto scritto sopra una bufera, è la fiducia che ti porti sulle spalle quando cadi ancora. Non sei la somma dei tuoi errori in colonna, non sei silenzio dopo un 4 sul quaderno, sei il coraggio di rialzarti quando affonda quel che pensi di te stesso sotto il peso delle falle. E se mi sottovaluto mi taglio le ali, se mi sopravvaluto inciampo nei temporali, ma in questo spazio fragile tra paura e volontà forse nasce la mia vera libertà. Autoefficacia, fede nelle mie mani, quando il mondo treme tu non mi vedrai, non so se ce la faccio ma ci provo domani, la Bibbia non cosa amare e cosa odiare, tra un bacio e una carezza ti cambiano la demografia, ti educano al controllo mentre ti fan sognare, qualcuno tira i fili sopra l'industria culturale, decide cosa è progresso, chi è moderno, chi è sbagliato, ti dice sei più libero se consumi un po' di meno, ma intanto il desiderio è incatenato e sorvegliato. Triste il cinismo da tastiera, trench e furibondi e progressismi da vetrina, io cerco una via stretta che non venda la mia anima nel branco dei risentiti né alla pubblicità continua. Efficacia, fede nelle mie mani, non le serie scritte per guidare i miei perché, non voglio un mondo docile di corpi troppo umani addestrati alla paura di desiderare il più di sé. Autoefficacia contro il culto del possesso, contro l'intolleranza buona che decide chi sarai. Se il potere ha una sola dimensione di progresso, io ne cerco un'altra dove tu non mi consumerai. E allora dimmi se la fede è solo un altro nome per mi sento capace, se l'anima è una stanza piena di simboli, di errori, di coraggio che taci, forse la cura vera non è soltanto biopsicosociale, ma anche un salto nel vuoto metafisico esistenziale, una scolastica nuova. Yeah! mezzo ai supermercati. Viviamo in una dimensione sola fatta di vetrine. Vorrei liberare la libido, non ridurre i nati. Cambiare l'immaginario invece delle discipline. Non basta scegliere tra opzioni già decise, tra più consumo o meno per salvare questo pianeta. Forse il passo rivoluzionario, scoppio le ricorsionario. Ormai sta rifruntarmi di troppi take you. Il poliore comincia.